Però voglio e dire, gli altri guardino pure Gheddafi. Gli altri Gheddafi, dice. Sì, per dire. Cioè, per dire. Perché Roma guarda Gheddafi. No, no, Roma da un punto di vista geopolitico e geoeconomico è chiaro che la parte propriamente peninsulare è stata, ha questa vocazione anche storica, io lo riconosco, l'Italia propriamente detta è quella lì, è quella che Giannelli definiva la Magna Grecia. Ne parla con un po' di schifo, di distacco, no? No, no, è come una cosa, sono i nostri vicini di casa, io sono per tenere degli ottimi rapporti, cioè se ci fosse l'indipendenza domani mattina, io la prima cosa, io contassi qualche cosa in questo paese, tenga conto che io nella navicella del Parlamento Europeo sono sempre presidente del governo provvisorio della Padania. Sì, è vero, vero. Vado è vero. A consultare, esatto. Io, il primo provvedimento che farei è un trattato d'amicizia e di collaborazione stretta, economica, culturale, perché sono i nostri vicini di casa. A chi? Con l'Italia? Con l'Italia. Cioè, quindi manterrebbe buoni rapporti con Roma. Quindi. Buoni rapporti e magari, se visto la mia età un po' avanzata, magari chiederei di fare console generale a Roma, dove si vive benissimo, una delle città più confortevoli, più belle e più simpatiche del mondo.